Amore, sono tanto solo, tanto, tanto solo. Non ho più te, sorriso fingo, ma nel cuore piango. Mi manchi tu. È tanto triste dirsi addio, io lo sapevo già, ma non potevo immaginar di soffrire così. Amore, sono tanto solo, tanto, tanto solo. Non ho più te, sorriso fingo, ma nel cuore piango. Mi manchi tu. Gli amici dicono che tu vuoi sempre bene a me, che vuoi saper da loro se io amo ancora te. Oh sì, io sono tanto solo, tanto, tanto solo. Non ho più te, un sorriso fingo, ma nel cuore piango. Mi manchi tu. Ma se tu vuoi ricominciare, mi puoi trovare, lo sai, dove quel giorno ti incontrai, io là ti aspetterò. Amore, sono tanto solo, tanto, tanto solo. Oh, no più te, un sorriso fingo, ma nel cuore piango. Mi manchi tu. Amore, sono tanto solo.